La manifestazione è ugualmente confermata, il ruolo delle associazioni, in questo caso in generale del terzo settore, resta quello di monitorare l'operato delle istituzioni in questo senso, quindi chiaramente per noi è un ottimo risultato, è aggiunto solamente come una manifestazione chiamata sul nazionale, non ancora neanche avvenuta, ma con un'adesione già, un impatto già mediatico molto, molto alto. È già un risultato quello di aver rimesso sotto i riflettori il tema e aver fatto fare retromarcia in questo senso anche che al ministro. Chiaramente le promesse fatte vanno adesso monitorate per far sì che non sia soltanto l'ennesima toppa con dei fondi parziali e comunque non stabili per il momento. Quindi chiaro, ottimo risultato anche il proposito di inserirsi finalmente, come già dovrebbe essere, in teoria nei LEA con un fondo stabile annuale, è da vedere chiaramente. I disturbi del comportamento alimentare, insomma, leggevo alcuni dati, dopo la pandemia sono aumentati di tantissimo. Sì, parliamo di oltre 3 milioni post-Covid di diagnosi, e le diagnosi sono comunque già un dato statistico estremamente parziale, per cui non possiamo neanche fare affidamento totalmente su questo dato. In questo senso i fondi del fondo speciale, per quanto appunto instabili, per quanto straordinari, avevano dato un grande supporto a costituire e a pagare professionisti specializzati, e quindi in alcune regioni, per quanto ci sia un divario tra regioni enorme, ci siano ancora delle regioni totalmente con un buco dal punto di vista delle cure cliniche, comunque ha dato un grande supporto all'inizio di percorsi di cura specializzati, quindi un investimento in questo senso è necessario, a maggior ragione in vista di dati appunto per quanto parziali, comunque in estremo aumento e allarmanti. Che voi di recente avete appena aperto appunto uno sportello qua a Bologna, nella sede di Labà, in vicolo Bolognetti, proprio perché immagino ci sia richiesta di questo tipo anche di servizi di orientamento. La richiesta è stata tantissima, siamo pieni fino a metà di febbraio e l'annuncio dell'apertura è avvenuto poche settimane fa, sia in termini di richieste di accesso che in termini anche di richieste per diventare attivisti. L'impatto e la risposta è stata davvero enorme in un lasso di tempo brevissimo. Questo ci ha fatto pensare non che facciamo niente di straordinario rispetto agli altri, ma che rispondiamo ad un'esigenza in questo momento e che a livello di attivazione civica c'era un bisogno incolmato sul territorio anche di Bologna, che è attivazione civica per qualsiasi tema sostanzialmente, ma che sul lato dei disturbi del comportamento alimentare vedeva un po' un buco di attivazione. Questo è fondamentale da più punti di vista: lascia spazio di comunità a chi ancora è dentro la malattia, lascia uno spazio di attivazione a chi ancora ne soffre o chi ne è uscito, e questo spesso è un passaggio anche nel percorso di cura, perché ti fa iniziare ad uscire dallo sguardo, passami il termine, egocentrato della malattia, inizia a farti riguardare all'esterno e a farti pensare che puoi aiutare qualcuno, puoi iniziare a supportare i percorsi di altri, puoi iniziare a politicizzare il tuo percorso personale come un qualcosa invece di collettivo. E questo è di fondamentale importanza, che ci sia uno spazio per ricevere questo supporto, ma anche per dare questo supporto, perché appunto riesce a fare un lavoro di cura e di prevenzione sia dal lato degli attivisti sia dal lato di chi riceve i servizi. Come si svolgerà la manifestazione? Sarà appunto in piazza Scaravilli dalle 18, sarà semplicemente una manifestazione statica con interventi, avremo degli striscioni, dei cartelloni, e poi in realtà aderenti e promotori faranno degli interventi, e poi ci sarà spazio chiaramente per chiunque vorrà farne non programmati.